Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Valerio Castronovo. Buonasera. Valerio Castronovo, storico dell'economia, professore universitario a Torino, editorialista del Sole 24 Ore, ha pubblicato il suo ennesimo libro. Quanti sono, Castronovo? Ma ormai non li conto più, ma insomma, importante è lavorare e soprattutto avere delle motivazioni, ecco, per lavorare e per scrivere. E motivazioni ce ne sono. La crisi degli ultimi anni ha dato spunto per questo libro che ha come titolo Il capitalismo ibrido, edito da La Terza, saggio sul mondo multipolare. Il capitalismo ibrido, allora spieghiamo subito il titolo, professor Castronovo. Ma perché sostanzialmente tutti i paesi hanno adottato gli stessi meccanismi strutturali del sistema capitalistico e quindi noi siamo in presenza di una sorta di capital comunismo in Cina, di un capitalismo di sinistra riformato come l'ha definito Lula, quello del Brasile, un capitalismo diciamo anatolico per quanto riguarda la Turchia, questa è la definizione che si dà della Turchia, che è un paese emergente. C'è un capitalismo poi di conio, di matrice anglosassone, no? Che è quello indiano, insomma con molte peculiarità. E c'è sempre, come dire, l'economia sociale di mercato, che è quello del capitalismo tedesco, nella versione diciamo per eccellenza di questo sistema economico, che era nato ancora negli anni 50 con Adenauer ed Erhard. C'è poi naturalmente il capitalismo americano, che negli ultimi anni è sfociato in una sorta di finanziarizzazione dell'economia, che però appunto ha dato luogo ad una spirale perversa, che è quella che conosciamo, sfociata poi nella crisi del 2008. Insomma, ci sono tanti modi di gestire il sistema capitalistico con differenti regimi e sistemi politici. Ecco, ma si tratta di differenti sistemi politici e economici, oppure si tratta di una convergenza verso uno sviluppo che combina insieme, appunto, come lei dice, i postulati di Adamo Smith, di Karl Marx e anche di Confucio? È possibile trovare una sintesi tra le varie forme di pensiero filosofico prima ed economico poi? Non credo. Io credo che ogni paese continuerà a declinare a modo suo, diciamo, un'economia che sostanzialmente si basa sul capitalismo, nel senso che per esempio la Cina ha adottato all'inizio un sistema che era tipico dell'Inghilterra vittoriana, cioè un'accumulazione del capitale soprattutto con l'apporto rilevante delle campagne. Insomma, si è finanziata l'industrializzazione con l'apporto consistente di braccia, ma anche di risorse delle campagne, che sono oggi infatti rimaste le zone più arretrate, più povere, dissanguate della Cina, perché insomma lo sviluppo è avvenuto soprattutto nelle aree costiere e non certamente all'interno. Poi c'è anche il fatto che questo prorompente sviluppo economico della Cina si trascina dietro rilevanti problemi di sostenibilità sia sociale e sia diciamo ecologica, ambientale. Oggi per esempio quello brasiliano ricorda questa espansione prolompente del Brasile, ricorda l'età pionieristica dell'America che era alla conquista di una frontiera dopo l'altra, e d'altra parte il Brasile è ricchissimo di risorse naturali, e poi è anche il produttore oggi di etanolo, cioè di un nuovo carburante che dovrebbe evitare i problemi dell'inquinamento ecologico. Ed è anche un paese giovane, come era l'America alla fine dell'Ottocento, tra l'Ottocento e il Novecento, e desideroso di una rivalsa nazionale. Ecco, quindi anche questi fattori, diciamo, politici e culturali contano molto in questi processi di sviluppo e anche nella formazione appunto di un universo multipolare popolato, ecco, da tanti attori nuovi a livello politico. Ecco, l'altro aspetto infatti importante è quello di come emergono queste nuove realtà. Si parla molto dei BRIC negli ultimi tempi, del Brasile, della Russia, dell'India e della Cina. Tra l'altro lei intitola il capitolo sul Brasile La vitalità esuberante del Brasile, e lo ha spiegato poco fa, ma ci sono anche un'altra serie di realtà di cui si parla forse di meno: l'Indonesia, la Corea del Sud, la Turchia, il Sudafrica, che dovrebbe essere entrato nei BRIC facendoli diventare BRICS, la stessa Australia. Ecco, possiamo pensare veramente a un mondo multipolare dal punto di vista dello sviluppo economico? Io penso proprio di sì, infatti in questo mio saggio parlo diffusamente della Corea del Sud, dell'Australia e di certe realtà del sud-est asiatico. Io penso anche a Singapore, penso anche a questa rincorsa della Corea del Sud, ma ci sono altri paesi che arretrano, il Giappone è pressoché fermo in termini di PIL, sorpassato dalla Cina, e ci sono paesi purtroppo come l'Italia che dal settimo posto, l'Italia retrocessa all'ottavo, superata dal Brasile. Ecco, c'è una continua sostituzione, un continuo mutamento nell'ambito del firmamento economico internazionale, ed è un firmamento economico, come dicevo, sempre più popolato ma anche sempre più interdipendente, e quindi oggi la globalizzazione ha prodotto appunto questo riassetto degli equilibri economici e sta producendo anche un riassetto degli equilibri politici, dei rapporti di forza, di potere. Insomma, gli Stati Uniti oggi hanno subito una flessione nelle loro quotazioni dopo la grande crisi del 2008 e dopo le disavventure in Iraq e in Afghanistan, e l'Europa purtroppo è ferma al palo, meno la Germania. Ecco, la Germania è veramente, io ho intitolato un capitolo sulla Germania con la vocazione imperiale della Germania. La Germania sta crescendo nonostante la crisi e sta, come dire, un po' relegando in secondo piano quelle che erano le sue direttrici di marcia precedenti verso una sempre maggiore integrazione dei paesi dell'Unione Europea. Sta andando un po' per proprio conto a seconda dei propri specifici interessi, e questo certamente indebolisce oggi l'Europa, che d'altra parte ha perso lungo la strada dopo il naufragio della Costituzione federale e in assenza di leader politici oggi di alto profilo, e sta perdendo di vista l'obiettivo dell'integrazione, stanno risorgendo etnocentrismi nazionali. Sì, l'Europa è sicuramente un problema, era un tempo anche l'Africa, Hic sunt leones si diceva, uno dei suoi capitoli conclusivi del libro è dedicato all'Africa e alla ricerca di una nuova via verso lo sviluppo. Ecco, sappiamo le tensioni e anche i fermenti che ci sono all'interno dei paesi africani, al di là del caso della Libia. Se lei potesse puntare una scommessa su uno dei paesi africani che in futuro potrà dare maggiore spazio alla crescita e magari alla partecipazione, allo sviluppo globale, su chi punterebbe? Sull'Egitto, sul Marocco, sul Sudafrica? L'Egitto, anche perché è ricco di greggio, è ricco di risorse minerarie, poco popolato però rispetto alla sua vastità. Penso al Sudafrica soprattutto, il Sudafrica, anche se stanno risorgendo tensioni questa volta, insomma, fra bianchi e neri, soprattutto oggi da parte della comunità nera rispetto al sistema di apartheid imposto dalla comunità bianca in altri tempi, ma in Sudafrica ha delle enormi potenzialità sia come risorse proprie e anche questa gran voglia di rivalsa, anche qui come il Brasile, come l'India, sempre che anche l'India riesca a risolvere i suoi problemi, i suoi contenziosi con il Pakistan. Ecco, comunque lei definisce l'India un elefante che ha messo le ali, che quindi ha cominciato a crescere, concludendo anche la sua conclusione del libro è dedicata a questo mondo multipolare senza più un centro. Sarà così anche in futuro la ricerca forse di un punto di equilibrio, oppure ci sarà appunto un paese che potrà sopravanzare gli altri molto rapidamente? Io penso che a un certo momento non ci sarà più nessun paese come era ai tempi della iperpotenza degli Stati Uniti dopo il crollo dell'Unione Sovietica, non ci sarà più un paese, diciamo, che svolgerà una funzione così preminente. Quello che oggi si auspica da più parti, ultimamente l'ha detto Henry Kissinger, è una sorta di partenariato, di condominio, di cabina di regia, come la vogliamo chiamare, fra gli Stati Uniti e la Cina, in modo che, insomma, si possa svolgere un'azione efficace per risolvere o per affrontare meglio alcuni problemi che fondamentali, da quello di bloccare, di neutralizzare l'offensiva sempre persistente del terrorismo, a quello di bloccare la proliferazione delle armi nucleari, a quello ancora di diciamo attutire le più aspre tensioni internazionali come quelle oggi che coinvolgono da sempre, non da oggi, il Medio Oriente, l'Africa, ma anche diciamo le due Coree, tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Certo, i problemi del mondo sono certamente tanti, speriamo appunto che questo condominio non si risolva in un litigio come spesso si fa nei condomini, ma sia veramente teso alla crescita, allo sviluppo complessivo in cui ci possono guadagnare un po' tutti, come è giusto. Io ringrazio il professor Valerio Castronovo di averci illustrato il suo libro Il capitalismo ibrido, edito dalla Terza, sono 144 pagine per 12 euro. Grazie professor Castronovo. Grazie a quanti ci hanno seguito.